sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina dedico la puntata a tutte le donne in ascolto, soprattutto alle donne sole, alle donne alla ricerca, alle donne disperate perché attorno a loro non trovano uomini all'altezza delle loro aspettative. Voi direte, avete già fatto questa trasmissione, avete già parlato degli uomini non all'altezza delle aspettative delle donne. No, oggi circoscriviamo la materia del nostro indagare. Oggi parliamo dei quarantenni. I quarantenni sono una classe di esseri umani di sesso maschile, naturalmente parlo di quelle, le nostre latitudini, circoscriviamo ancora di più la materia della discussione questa mattina, che normalmente hanno dei grossi privilegi rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Un quarantenne oggi è una persona normalmente soprattutto nelle realtà urbane abbastanza autosufficiente dal punto di vista economico, ma vogliamo andare oltre, troviamo quelli che stanno abbastanza bene, quelli che in fondo hanno molto tempo libero, quelli che sono liberi sentimentalmente e sono anche socialmente abbastanza ben collocati, sono le persone al centro della massima appetibilità. Oggi il quarantenne di questo tipo, il quarantenne vuoi scapolo, il quarantenne vuoi separato, vuoi divorziato, è naturalmente l'ultima spiaggia, l'ultimo baluardo di possibilità maschile di poter realizzare una felice coppia duratura. E naturalmente, essendo prevalente il numero delle donne sole, delle donne che non trovano uomini alla loro altezza, delle donne che sono anche loro socialmente ben collocate, professionalmente felici, indipendenti, sganciate, intelligenti, perfette conoscitrici del loro tempo, dove devono andare a parare? Non certo sui trentenni che ancora sono smidollati, che ancora vivono in famiglia, che ancora hanno mezzi sostentamento. Non certo sugli ultra cinquantenni, come il sottoscritto che parla, che naturalmente ormai sono nella fase ultima della loro evoluzione virile, sono persone che se anche fossero solo sono più che altro un fardello pesante per il futuro di una relazione. Quindi il quarantenne è al centro di tutto questo. Ma come sono oggi i quarantenni? Da un certo punto di vista sono ricercati, vezzeggiati, frequentano le palestre, frequentano i campi di calcetto, frequentano i locali abbastanza in vista, hanno felici possibilità di fare vacanze, hanno delle belle case, molte volte pluriaccessoriate, sono persone molto divertenti da frequentare, ma perché le donne dicono sempre che sono degli immaturi, che sono degli eterni bambinoni e che sono dei cretini totali? Io, come sempre faccio, ho messo questa domandina innocente nella serata di ieri. Oggi parlatemi dei quarantenni maschi che girano di questi tempi, ricercati e contesi come non mai. Ho raggiunto il pregevole numero, mi sembra di 100 e passa pareri, di donne inviperite, arrabbiate. Ah, ne avrei io una lunga lista di persone di cui potrei parlare, un museo degli orrori. Dio ce ne guardi. Sì, Dio ce ne guardi, però ancora i quarantenni sono al centro di tutte le attenzioni. Gli uomini quarantenni visti da una ragazza. Anche se mantengono un bel fisico, hanno sempre la pancia. E se la eliminano, sembrano dei ridicoli Big Jim. Hanno già perso, stanno perdendo i capelli. Sono sempre di malumore per colpa del lavoro. La sera sono stanchi e non vogliono uscire. Hanno il colesterolo alto. Vanno in palestra come se andassero in ufficio, cioè a perdere tempo. Se si mettono giacca e cravatta, li scambiano per tuo padre. Se si mettono jeans e scarpe da ginnastica, sono ridicoli. Se sono liberi, come una cabina del telefono sempre vuota, hanno sicuramente qualche problema. 800 24 0024. Voi donne in ascolto, voi donne sole, voi donne realizzate, voi donne single, voi donne di cui abbiamo già ampiamente parlato. Vedete in questa maniera i quarantenni che vi circondano, i vostri amici, i vostri colleghi, i vostri amori passati, presenti e forse futuri. Questa è esattamente la definizione oggi del quarantenne, che è un personaggio che anche nel mondo del lavoro ha il suo peso. Mi scrive un cinquantenne, dice: li conosco bene anche nel mondo del lavoro, sono nel pieno del fisico, sul lavoro sono assatanati, infaticabili, intelligenti, capaci, sanno parlare bene, hanno appena superato l'età con la faccia da sbarbatello e si presentano abbastanza adulti per essere credibili, si circondano i giovanissimi, bellissimi, attivissimi ed emanano un alone di modernità, tutti internet e Facebook, si assicurano nel frattempo la collaborazione spesso occultata dei collaboratori più anziani, ampiamente ricompensati in cambio del loro restare nell'ombra. Quindi è una strategia ben precisa, ben mirata, il massimo dell'apparenza e il massimo dell'efficienza, il massimo dell'efficienza anche nel scoprire e usare al meglio le risorse umane delle generazioni passate. Quindi dietro un quarantenne brillante ci possono essere due o tre cinquantenni, cinquantacinquenni che se ne stanno volentieri nell'ombra pur di portare acqua al mulino di questo splendido rampollo, di questo meraviglioso virgulto della nostra società. Io sto bene, se è questo che ti preoccupa. Non è questo che mi preoccupa. Ma dovrebbe essere questo, non ti pare? Io me lo sentivo, lo sapevo. Che farai adesso? Mi scolerò una bottiglia davanti alla TV e domani vado a lavorare. E poi che altro? Troverò una brava ragazza e farò dei figli, promesso. Così non dovrai più preoccuparti. Ero sicura che prima o poi sarebbe accaduto. E allora perché ti scaldi tanto? Sai perché ti ha lasciato, vero? Il matrimonio non c'entra. Ah, lo dici tu? Mamma, te lo ripeto per l'ultima volta, Laura non si è mai voluta sposare. Non è quel tipo di ragazza. Il problema non è quello, chiaro? Io non so qual è stavolta il problema tra voi, ma so che ogni volta che ti metti con una donna, prima convivete e poi lei ti lascia. Tu conosci una, vi mettete insieme e dopo un po' lei ti lascia. Sta zitta, mamma! Ma come si fa? Mette il dito nella piaga. Ecco, questa è una tipica telefonata fra il quarantenne e sua madre, come potrete immaginarvela voi, che avete lasciato lacrime su quel cuscino, che avete consumato i tacchi delle vostre scarpe in quel meraviglioso parquet e che avete ceduto gli orizzonti più insondabili della vostra pudicizia a quella musica con un apparato di alta fedeltà. Lui è il quarantenne, protagonista di Alta Fedeltà, il film tratto dal romanzo omonimo di Nick Hornby, che è un autore molto specializzato nella definizione di questi uomini che, ahimè, fanno molto soffrire, fanno molto sperare, questi uomini altamente disprezzati. 800 24 00 24, raccontateci i quarantenni della vostra vita. Ho 40 anni e vivo da solo, sono single perché ritengo di non aver trovato la donna che fa per me. Io ho avuto tre fidanzate ufficiali, sono durate un anno, 5 anni e un anno. Contribuisce il fatto di aver avuto delle storie lunghe, comunque serie, a rendermi ancora più convinto di rimanere single. A volte credo di aver fallito, altre volte invece, guardandomi intorno, forse ritengo di aver evitato un bel po' di problemi. A me fa paura il dover levare le chitarre dal muro per fare posto ai quadretti che lei dipinge. Ecco, questa è la storia di un nostro amico quarantenne che racconta senza veli, senza pudicizie, senza timori, quello che è il suo punto di vista. Lui, l'uomo solo, l'uomo con una bella casa, l'uomo di buon gusto, l'uomo con un fisico molto curato, l'uomo con una professione che gli permette di avere una buona disponibilità di mezzi di sussistenza, di mezzi di sopravvivenza, di mezzi di intrattenimento, e allo stesso tempo gli permette di avere un tempo libero a disposizione. Lui è l'egoista, lui è l'immaturo, lui è quello che non si decide mai, lui quello che salta di fiore in fiore. Ma quanti fiori sono stati colpiti dal saltare irrequieto di un quarantenne? Paola dice: i media, a forza di sbandierare l'assoluta certezza, i quarantenni sono i nuovi 25enni, li hanno convinti del tutto, con la differenza che la biologia non perdona, non si adegua alle nuove metamorfosi sociali. Il conto spermatozoico di un quarantenne è calato tanto quanto la sfioritura del cuoio capelluto, e lì andiamo a toccare. Il quarantenne è pericolosamente verso il declino delle sue capacità riproduttive. Il quarantenne è l'ultima speranza, comunque, di avere un possibile padre per dei probabili figli, per delle donne che sentono battere furioso il loro orologio biologico. La mia giornata tipo è classica nella prima parte della giornata, perché mi alzo, vado al lavoro, lavoro fuori Roma fino al pomeriggio. Poi dopo il pomeriggio, essendo un appassionato di musica, generalmente mi perdo tra prove, concerti, composizioni, locali. Ho una gestione perfetta del panno sporco, quindi li lavo nella lavatrice, c'è il cestino dei panni sporchi, quello dei panni da stirare, e faccio tutto da solo. Per quanto riguarda invece il cibo e gli stoviglie, sono assolutamente sempre pulite, mi cucino da solo, non compro mai cose da cucinare precotte. Tendo sempre a cucinare tutto io, quello che mi mangio. Ecco una freccia in più all'arco del quarantenne affascinante. Non è frettoloso, sa anche cucinare. Oggi il gusto e la perizia nel saper confezionare una discreta colazione o una cena molto particolare fa parte del fascino del quarantenne. Normalmente i quarantenni oggi hanno molto tempo, fanno anche corsi da sommelier, sono anche dei bravi amministratori della piccola enoteca di casa, sanno quel dosaggio giusto fra musica, superalcolici, parlare affabulatorio, mostra dei loro mobili di design, racconti delle loro avventurose vacanze che fanno cedere ogni donna. Una donna non cede perché si lascia sedurre, cede soltanto perché pensa che quello potrebbe essere veramente l'approdo giusto. Ha tutte le carte in regola. Perché non cede? Perché non si lascia andare? Perché non diventa maturo, alias, perché non la sposa? Il fatto di non avere figli mi crea dei problemi, soprattutto per quanto riguarda la famiglia che ho intorno, cioè mi fa sentire in colpa nei confronti del desiderio che i miei genitori hanno di volersi vedere con dei nipoti intorno. Per quanto riguarda me, devo dire la verità, non ho, se mi guardo con sincerità dentro, questo problema. Non sono un bambinone perché io ho un lavoro di grande responsabilità. Tra 20 anni mi vedo come una sorta di capofamiglia allargata, come quella che i romani chiamavano la famiglia Agnatizia, quindi con una decina di donne e i rispettivi loro figli. Ecco caduto il velo, ecco il segreto del quarantenne che voi su cui voi ogni volta investite, su cui ogni volta vi fate pensieri, fate speranze, pensate che sia la volta giusta, che metterà la testa a posto. Chissà perché per lui mettere la testa a posto significa uscire da questa sua aurea condizione di persona vezzeggiata, al centro dell'attenzione, è professionalmente irresistibile e sentimentalmente appetibile. Beh, vedete, lui sogna in realtà di avere l'harem, anche disposto a concedere il piacere della procreazione alle sue donne, ma più in là, quando ci sarà tempo, senza ciò comporti un impegno. La cosa più strana che mi è capitata è aver ricevuto una visita femminile di una mia amica, che poi non si è rivelata tale, la quale mi ha portato 12 rose rosse. Io in quel momento ho capito di essere diventato la donna e lei era l'uomo, e per queste 12 rose non ho potuto far altro che regalarle a mia madre il giorno dopo al pranzo della domenica. Ecco la pugnalata, ecco la fitta al cuore, ecco il macigno pesantissimo che ho appoggiato sulla vostra coscienza e sulla vostra memoria storica e sulla vostra, ahimè, tormentata vita sentimentale. Le 12 rose che una donna portò, pensando che fossero il preludio dell'inizio di una lunga storia, segno d'amore, rottura di tutte le barriere, segno di modernissimo anticonformismo, lei non più gratificata da rose, regala un mazzo di rose all'uomo che va a trovare. Nella tana del lupo si va con un mazzo di rose rosse. Quale offerta più meravigliosa, quale preludio al cedimento totale, pur di avere qualcosa in cambio. Cosa fa lui? Il giorno dopo, dopo aver consumato, ahimè, quello sconsiderato gesto basato sulla speranza di una duratura storia d'amore, corre dalla mamma e porta alla mamma quel mazzo di rose. Flavia, buongiorno. Buongiorno. Si sente bene a sentire quello che ha appena detto il quarantenne? Beh, riconosco i tratti di molti italiani quarantenni con cui ho avuto a che fare. Quindi lei ha le penne bruciate dalla fiamma di passione di un quarantenne? No, veramente devo dire che ho, come dire, sviluppato un sano istinto di autodifesa, e quando l'incontro lievito come la peste. Lievita essendone attirata, però questo non può negarlo. No, non ne sono più neanche attirata, devo dire. Io ho trovato persone molto più valide negli uomini che vengono da altri paesi, e specificatamente dalla Scandinavia. Ah, quindi lei si è buttata sugli svedesi? Sì, no, i norvegesi, danesi, insomma tutto meno che italiani. Beh, strano, perché nel luogo comune sembrerebbero persone diversamente abili nel saper far fibrillare di passione donne abituate a altro tipo di rapporto. Non è vero che l'italiano è appassionato. No, no, dica lei. Posso dire che a letto non è nemmeno tanto bravo. Ne prendiamo certe cose. Gli svedesi sono meglio. No, ma come dire, almeno si mettono in gioco, almeno ci sono, almeno ti dicono: senti, tu mi piaci, giochiamocela sta partita. Invece gli italiani fuggono e basta. Ecco, ma giocare sta partita, signora, cosa consiste? Quanti sono i tempi della partita e quanti sono i gironi di andata e di ritorno? Perché io penso che... Giochiamola, cioè voglio dire, i tempi non sono i tempi che ognuno trova, che ne so, non c'è una regola. Però l'unica regola che c'è è essere lì, essere sinceri, dire: vabbè, ma io non c'ho nulla da perdere. Ti voglio bene, mi piaci, sei carino, sei carina, stiamo insieme, frequentiamoci, senza giocare a scacchi come se, non so, faccio vedere un aspetto di me, oddio questa mi vuol fregare, oddio questo chissà che mi fa. No, giochiamocela apertamente sta partita. Ma può essere, non vorrei difendere la categoria dei quarantenni che già è abbastanza privilegiata, che, perché ha un ampio ventaglio di possibilità di scelta, il gioco si possa esaurire in un incontro, massimo due, non è detto debba essere prolungato. Ma per me che ben venga, ma il fatto che quasi quasi, non so, dire mi piaci diventa complicato per un italiano ormai. Ah, è questo, a questo livello? Ecco, io non pensavo che fosse stanno così. Stanno a pezzi, secondo me. Stanno a pezzi. Ma perché, si piacciono troppo loro stessi per poter... Hanno evidentemente paura di perdere qualche cosa, e chissà cosa. E poi stanno da soli, come cani, arriveranno come questo quarantenne a 60 anni da solo a guardare un muro. E cosa troveranno? La prima sciampista di 30 anni che si farà subito mettere incinta, e poi staranno lì a mugugnare. No, Flavia, c'è tanto rosicamento in quello che dice lei, anche se mi scrive Melania su Facebook dicendo ha ragione e sta urlando, mettendoli in caratteri maiuscoli. Quello che dico io? Sì. Beh, troppe ce n'hanno da dire. Ma guardi che io sono una privilegiata perché non sono sposata con un italiano. E se abbiamo capito, la scelta esterofila la rispettiamo, però non risolve il problema. Ci dia altri elementi. No, guardi, gli italiani quarantenni sposati con le mie amiche le stanno rovinando. Sono depressi, rompicoglioni, non lavano i piatti a casa. E basta! Sì, ma la scelta... Cioè, scusi, posso essere d'accordo, lei mi sta dando un piatto meraviglioso perché sta già arricchendo la nostra ipotesi di partenza, ma secondo lei l'unica via di uscita è quella di andare a cercare altrove quello che ormai non produce più il nostro paese? Guardi, gli italiani erano almeno disposti a fare i sentimentaloni lì, a fare il Latin lover, sguardo languido, e dirti ti amo alle straniere che venivano qua e si sentivano bruciare la pelle per la passione. Adesso, se uno vuol trovare quel tipo di uomo lì, deve andare in Turchia. Va bene, questo ci fa piacere, che ci apriamo a un mercato variegato e interessante. Presento soltanto, perché ci ha ascoltato finora e so che anche in treno, un esperto di quarantenni che è Fabio Bonifacci. Bonifacci, ciao. Ciao Nicoletti. Ti ho lasciato in ascolto fino adesso perché volevo tu avessi argomenti sufficienti dopo le informazioni dalla borsa, e ci ti dirai qual è il tuo punto di vista, perché finalmente faremo parlare un uomo con cognizione di causa. Tu hai analizzato con due libri l'universo dei quarantenni, che si può sintetizzare in tre parole: amore, bugie e calcetto, che mi sembra che sono esattamente i termini in cui si esaurisce il fascino e a me anche l'abiezione di questo fetta di umanità umanità che stiamo questa mattina abbandonando al vituperio, ma in seconda parte probabilmente qualcuno li riscatterà. Melog 2.0. Secondo me ogni uomo è un'isola, e per di più questo è il momento giusto per esserlo. Questa è l'epoca delle isole. 100 anni fa era diverso. Dovevi dipendere da altre persone. Nessuno aveva la TV o i CD o i DVD o i video o la macchina per farsi il caffè espresso in casa. A dire la verità, non avevano niente per divertirsi. Puoi essere assolato, tropicale. Una calamita per le giovani turiste svedesi. Ciao, sono Christy. Mi hai chiamata. Volevo ringraziarti. Sono stata benissimo ieri sera e allora chiamami se ti va. Ciao. E a me piace pensare che io potrei proprio essere un'isola del genere. Mi piace pensare di essere molto figo. Mi piace pensare di essere Ibiza. Questo è Hugh Grant, il protagonista di About a Boy, sempre un film tratto da il quarantennologo Nick Hornby, che ha scritto vari libri dedicati proprio a questa categoria di uomini meravigliosi. Avete sentito, Hugh Grant sente come un'isola dei sogni, un'isola delle meraviglie, a cui tutte le naufraghe vorrebbero approdare. Carmela, buongiorno. Lei ha conosciuto un uomo di 47 anni, quindi è quasi cinquantenne però. Sì, sì, è quasi, però per me alla fine ho considerato che era un pochettino più giovane di 47 anni. E niente, lo abbiamo convissuto per 2 anni, lui ha un matrimonio alle spalle, è finito 2 anni fa, e mi è piaciuto perché era molto socievole, intelligente, insomma, un lavoro importante, fa l'avvocato. Quindi rientrava nella categoria che stiamo definendo, dello splendido quarantenne. Sì, è curioso, insomma, voglia di fare all'esterno, che a me piaceva molto perché anche io sono una persona socievole. Poi prima dei 2 anni, ho scoperto che quando chiedevo un pochettino di più di impegno all'interno, e lì la difficoltà è apparsa. Ecco, me lo spiega un po' meglio. Molte donne dicono non si impegna. La sua collega prima ha detto non lavava i piatti, ma non penso che impegno significa non semplicemente... Non lavava i piatti, lavava solo i piatti, purtroppo. No, è che a un certo momento gli ho chiesto, lui è venuto a casa mia, avendo anche casa sua, però per comodità eravamo a casa mia. Effettivamente nel, diciamo, di dividere le spese, perché una donna gli stirava le camicie, allora è un pochettino più, mi diceva, ma io preferirei che tu le stirasse tu, o comprare un armadio per mettere i suoi vestiti erano lì, insomma, in mezzo alla valigia sempre pronta, insomma. Cioè, sembra un film di Alberto Sordi o di Verdone, passati i tempi, quindi in realtà si è dimostrato gretto, meschino, anche un po' taccagno. Sì. Esatto, e devo dire che dietro di questo c'era un problema secondo me grosso. La mamma. Aveva una mamma, ecco. Ha una mamma molto forte che si è sempre occupata di tutto nella famiglia, un papà praticamente che per comodità consente tutto quello che fa la moglie, e quindi questa mamma ogni volta giudicava le donne che conosceva. E quindi lei passava al vaglio terrificante della probabile suocera senza nemmeno avere il privilegio di avere veramente una suocera. Con me era gentilissima, però poi dietro di me lui diceva che mi criticava, che insomma io ho 50 anni, che ero troppo vecchio per avere un figlio, quando lui avrebbe avuto un figlio, il che ho detto, sì, ho detto alla signora, se il suo figlio volesse un figlio avrebbe scelto forse una ventenne, come mai ha scelto me, insomma. Allora era tutto, e lui dice, se io a 33 anni sono andata via di casa della mamma, se rimaneva con la mamma sarei diventato un mammone. Quindi Carmela, per concludere, lei era una seconda mamma, un surrogato della mamma, una mamma decentrata, questo in fondo voleva... All'interno nella casa ho scoperto che alla fine ero la mamma, lui veniva le ore che voleva lui, tardi alla sera, trovava da mangiare, stirato, vestito e tutto quanto. All'esterno ero più la sua donna, ma all'interno no, si metteva prima di andare a letto le cuffie nelle orecchie. Cosa terrificante. Non c'era neanche più relazione sessuale, insomma. Cioè nemmeno faceva il suo dovere di amante? No, allora è chiaro. Ma scusi, ma di queste cose, adesso non vorrei entrare nella sfera intima, ma una non se ne accorge subito, dopo un mese, dopo una settimana? No, io mi sono accorto dopo 3 mesi, effettivamente, ha ragione, no? Dopo 3 mesi ci sono stati dei problemi. Perché il buongiorno si vede dal mattino, dopo, subito. Certo. Io mi chiamo Buongiorno, poi No, è che dopo 3 mesi ho scoperto che lui ha voluto assolutamente che io mi allontanasse da tutte le mie amicizie maschili, soprattutto. Vabbè, voleva forse una colf specializzata, con privilegio di uso promiscuo, quando una volta ogni tanto gli venisse mai vaghezza. Grazie, grazie. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ho finalmente un quarantenne, tiri fuori le sue ragioni prima che sentire l'esperto in quarantenne. Le mie ragioni, diciamo, sono prevalentemente incentrate da un intervento che ho sentito prima a questa trasmissione, in cui praticamente si diceva, non detto da lei ma da una vostra interlocutrice. Io ho solo invidia per i quarantenni di questa categoria, quindi mi astengo dal giudizio. Che un single se è tale perché ha problemi. Onestamente io mi sento fortemente, sono fortemente, insomma, dissento da questa cosa, prima di tutto perché io non credo di essere un single, essere tale perché ho problemi. Io credo di essere un single che gestisco questa mia situazione di single, semmai i problemi saranno di qualcun altro, ma non credo. Ecco, mettiamo le carte in tavola, Michele. Lei illude però all'inizio della relazione, fuggevole, duratura che sia, che in realtà potrebbe anche essere un compagno duraturo per la vita? Sì, certo, potrebbe. Ah, però fa parte del gioco, è chiaro. Ma certo, però il mio status non è conseguenza di problema, secondo me, non è un problema. Io non vivo il mio status. Però diciamo, per dirlo con franchezza, fa parte delle regole della seduzione far credere che uno si innamori, che uno potrebbe magari... Ma secondo me questo è un concetto separato da quanto è stato detto prima da alcune sue ascoltatrici, come anche per esempio in un altro intervento di un'altra ascoltatrice venivano detti dei luoghi comuni, non so, i piatti da lavare. Ma sì, posso lasciare un bicchiere perché devo scappare al lavoro. Sì, ma questo quando ci si attacca, quando poi cade il velo del disprezzo, sono piccole occasioni. In realtà il momento fondamentale è il tradimento dell'attesa. E dice: ma come? Non ti sei accorta che io mi ero innamorata di te, che io volevo passare la vita con te? Perché hai finto che la nostra fosse soltanto una fuggevole relazione basata, che ne so, sulla piacevolezza fisica o sulla simpatia? Questo le donne accusano il quarantenne di non capire il profondo bisogno, la profonda aspirazione di rapporto duraturo da parte della donna. Anche a me è capitato di innamorarmi di persone che non si erano accorte dei miei sentimenti, quindi io credo che sia questo che lei dice una cosa che riguarda entrambi i sessi, insomma, non riguarda necessariamente il quarantenne uomo. Va bene, la saluto Michele e andiamo appunto a chi ha studiato a fondo il problema, che può darci magari qualche categoria un po' più esatta. Bonifacci, buongiorno. Buongiorno, ancora lì? Sei lì? Fabio Bonifacci, ecco, adesso finalmente è posso il tuo fare una precisazione? Prego. Non ho studiato al fondo il problema, l'ho ragionato a fondo, non sono uno studioso, il libro che ho fatto è un libro brillante, sì, divertente, quindi però diciamo non ci sono studi. Beh, diciamo la verità, è anche un po' difficile avere una possibilità di studiare a fondo il problema dei quarantenni, rientrava nella facezia con cui abbiamo affrontato questo problema. No, infatti. Però dimmi un po', tu avevi scritto prima un manuale per difendersi dai 40 anni, quindi era una sorta di segreto di sopravvivenza nell'immobilizzare il felice momento dei 40 anni. Poi amore, bugie e calcetto, rientriamo in tre categorie ben definite che l'abbiamo lambite, ma sono quelle. Dedicarsi comunque all'attività amatoria come un piacevole passatempo, mentire, perché se non si mente in amore non si è mai liberi, naturalmente, guai a essere sinceri, e il calcetto, che mi sembra l'attività fisica e guerresca più avanzata del quarantenne nostrano. Esatto, anche l'attività, come dire, che ci dimostra una certa riluttanza ad ammettere la propria età, perché il calcetto non è propriamente l'attività ideale per una persona di 43-44 anni, quindi c'è come dire, il gioco del calcetto nasconde uno dei problemi della categoria, che è quella di capire. Noi abbiamo una generazione di quarantenni molto colti, sofisticati, in grado di capire milioni di pensieri, spesso fuorché uno, cioè che quello che c'è scritto sulla loro carta d'identità è vero. Pensano sempre, pensiamo sempre di essere più giovani di quello che si è. Io non so, non ricordo, perché noi ci siamo conosciuti in altre vite, Bonifacci, quanti anni tu abbia, però 46 al momento, ecco, quando io ne ho 42, ecco, ero nel io ne ho 54, capita anche alla mia generazione di non ammettere l'età che si ha, questo è un bene o un male, non so come dirti, che coglie molto l'uomo contemporaneo, che logicamente ha portato a rappresentare l'efficienza il più possibile. Ma torniamo ai quarantenni. Posso fare una difesa? Ah, certo. Visto ma che figura. Tutti stanno parlando male dei quarantenni. Io solo per invidia, ma mi rendo conto che vorrei essere io oggi quarantenne, perché me, 10 anni fa non era esattamente così, ancora si guardavano altre cose, si era più affannati, o perlomeno non esisteva questa felice consacrazione della centralità del quarantenne. Ma guarda, io nel libro che ho fatto sui quarantenni abbiamo fatto con Bertolino 52 profili diversi, partendo dai semi delle carte da poker, e di questi 52 profili, alla fine, in questi 52 profili c'è un dato comune, che è una certa riluttanza ad assumersi le responsabilità. E questa è l'accusa principe, non sanno prendersi le responsabilità. Io la cito perché anche l'accusa principe è venuta soprattutto dalle donne. Sì, no, scusa Bonifacio, ma se questa gente che lavora e comunque gestisce delle responsabilità professionali, quindi alcune responsabilità se le prende, non si prende la responsabilità di accollarsi una persona sentimentalmente a tempo indeterminato. Sì, ma spesso ci sono difficoltà anche a prendersi responsabilità, che ne so, rispetto ai genitori che cominciano ad avere problemi di vecchiaia, o anche rispetto a se stessi. Ci sono anche forme di fuga dalla responsabilità, che è il buttarsi nel lavoro senza mai fare i conti con la propria coscienza. Quanti ce ne sono di tipi così? Però la mia difesa è più ampia, nel senso che, se mi dai un minuto, io penso questo: se c'è un quarantenne che ha problemi a prendersi le responsabilità, è un problema suo. Se comincia ad essere una cosa generazionale, anche dimostrata dai fatti, per dire questa è la generazione che ha fatto meno figli nella storia dell'umanità, cioè rispetto alla responsabilità più grande, che è indubbiamente quella di mettere al mondo una creatura e occuparsene, questa generazione di quarantenni è proprio a livelli bassissimi. Ma se è un problema così generale, non è un problema dei singoli, è un problema globale, un problema sociale. C'è anche un uso dei contraccettivi un po' più diffuso, diciamo. Sì, ma io non credo che 50 anni fa fossero così tonti, che facessero solo i figli per caso. Penso beh, che... oddio, a leggere le storie delle grandi dinastie nelle ultime dispute per il DNA, pare che una volta li seminassero i figli con grande leggerezza. Vabbè, comunque, a parte questo, diciamo che comunque si facevano più figli voluti al di là di quelli seminati. Quindi dicevi la tua difesa, terminiamo con la difesa, esattamente. Dicevi. Esattamente, la difesa è molto semplice, credo che sia una generazione estremamente fortunata, che abbia una fortuna che si è verificata in pochi casi nella storia dell'umanità. È una generazione che non ha mai visto una guerra, è vissuta in anni di boom economico, ha avuto la tecnologia che pompava sulla vela, perché abbiamo visto nascere 1000 invenzioni che aiutavano la vita, 1000 cose divertenti e belle da fare. Non abbiamo mai visto la crisi economica. Il 2009 sarà forse il primo anno per questa generazione che ci fa -1, e siamo tutti disperati per -1. Sì, non è bello, però insomma. Non avete visto gli anni di piombo? Lambiti soltanto. Gli anni di piombo appena sfiorati da ragazzini, poi sono finiti. Quindi diciamo, è una generazione che non ha conosciuto il dolore collettivo, poi il dolore nella vita tutti lo incontrano, ma le grandi tragedie collettive che hanno segnato da sempre le generazioni, queste notizie. Quindi il pensiero di Fabio Bonifacio mi sembra molto chiaro. Nell'Italia, dal dopoguerra a oggi, il segmento auro del boom è quello dei quarantenni oggi vilipesi. Sono quelli che non hanno mai conosciuto la disgrazia, mai la sfortuna, mai la crisi, mai la tristezza. Hanno preso il meglio, il boccone migliore dell'arrosto, se lo sono presi loro, e oggi pappateli. Stiamo capendo un po' quale sia il problema, semmai può esserci mai stato un problema. Coloro che abbiamo iniziato definendo come gli uomini fortunati al centro di ogni attenzione, il vettore di ogni attesa, il punto di massima caduta di ogni delusione, in realtà sono quelli che nella nostra storia dal dopoguerra a oggi si sono presi la parte migliore, hanno avuto il boccone migliore. Tutte le generazioni, bene o male, o quelli lambiti dal dopoguerra e comunque avevano questa onda lunga, ne abbiamo parlato, delle tristezze, dei bombardamenti, dei morti, dell'angoscia della guerra, quelli della generazione successiva comunque hanno conosciuto l'austerità, gli anni di piombo, le sparatorie per strada, anche dei momenti abbastanza drammatici. Loro invece hanno preso la parte migliore. Oggi forse per loro il 2009 è il primo anno in cui si accorgono che forse la vita non è sempre in salita. Antonella, cosa ne dice? Io ho chiamato per rispondere, diciamo, a una persona che diceva che appunto gli italiani i 40 anni non sono più capaci tanto di amare, di corteggiare, che si era rivolta, diciamo, a uomini stranieri, no? Sì, veleggiava fra norvegesi e turchi, non aveva ancora ben capito quale fosse la qualità preferibile. Ecco, sì. Beh, adesso non vogliamo noi generalizzare, parlava della sua esperienza. No, certo. Però io credo che sia importante sapere quello che noi vogliamo e saper fare delle scelte. Cosa volete? Appunto, cioè certamente il quarantenne, chiaramente, che ha potere, che ha posizione, magari dietro a questa apparenza, così poi sotto sotto quei valori di costruirsi una famiglia, eccetera, ci sono meno, quantomeno non sono prioritari, per cui bisogna appunto scegliere. Sì, ma perché dovrebbe complicarsi la vita se sta così bene? Domanda provocatoria. Sì, appunto, quindi noi optiamo, io parlo per la mia esperienza, cioè si opta per una persona che invece chiaramente mette per primo certi altri valori che non appunto il potere, la posizione economica o comunque sia il dover mettere prima di tutto l'hobby, o che ben vengano questi aspetti, no? Certamente, però secondo me appunto sta un po' a noi, no? Capire veramente se vogliamo vivere con una persona che comunque mette prioritariamente certi tipi di valori o altri che per noi sono più importanti. Antonella, lei riesce a farsi interprete di un pensiero femminile rispetto a noi? Stiamo scherzando, è sul filo della facezia, ma dicendo facezia molte volte si lambiscono verità, e qualcuna forse questa mattina l'abbiamo anche sfiorata. Se lei dovesse mettere, radicalizzando da parte le donne, e esprimermi in un solo unico concetto, cosa vorreste dal quarantenne? Che vi sposasse e fosse un buon padre di famiglia e un fedele marito, con tutto lo splendore per cui vi ha affascinato? Sincera. Diciamo di sì. Diciamo di sì. Ma mica è un peccato pretenderlo, chiederlo, anzi è una cosa lecita. Perché lo sentite come senso di colpa? Perché forse probabilmente ponendosi a quel tipo di quarantenne ci si pone in maniera diversa. Non è che si va lì con il corredino, con le scarpine fatte all'uncinetto. Uno ci va con reggicalze e con il tacco a spillo. C'è un po' di ambiguità nell'approccio. Uno può pensare che dietro la maliarda che ci lascia graffi sulla schiena si nasconda il cuoricino di una buona massaia. Fatelo capire prima. Certo, uno deve anche sapere, certo che se va con un quarantenne, cioè, voglio dire, no? Se sta una relazione con un quarantenne di un certo tipo, chiaro che si aspetta, non si aspetta di certo. Non è che poi lo porta all'IKEA a vedere i lettini. Certo, è per questo che dicevo, appunto, uno deve comunque prioritariamente sapere quello che va incontro, dice ok, va bene, mi va questo tipo di relazione e vada come vada, ok. Però. Perché molte volte l'uomo cade dalle nuvole un po' per ipocrisia, un po' perché fa parte del gioco sparaculeggiare, ma un po' perché veramente non capisce esattamente. Certo. Dovreste fare una sorta di prontuario da mostrare subito: guarda, vengo con te, mi occuperò della tua felicità fisica, esaudirò ogni tua vanagloria e ogni tua aspettativa, però sappi che il mio punto di caduta è che dopo una settimana ti chiederò di prendere degli impegni per il futuro. Perché molte volte le donne anche si nascondono dietro questa leggerezza. Grazie comunque. Adesso a questo punto entriamo nella parte scientifica di questa trasmissione. Qualcuno ha voluto studiare, analizzare e creare delle categorie di ciò di cui stiamo parlando. Le quattro tipologie di giovani uomini italici. Primo tipo, responsabile e sotto pressione. È un uomo legato alla famiglia tradizionale, ha un punto di vista conservatore del proprio ruolo nella famiglia, sente la pressione della società moderna. Secondo tipo, l'uomo al passo coi tempi. Ha un'idea moderna della famiglia, si adatta facilmente ai cambiamenti della società, ha una visione moderna dei ruoli dei due sessi. Terzo tipo, io, me stesso e me. È poco orientato ad avere una famiglia, dà priorità a se stesso, dà priorità ai lavori che l'appassionano. Quarto tipo, io, scansa responsabilità. Rifugge impegni seri e responsabilità, non ha preoccupazioni, vive giorno per giorno. Ecco, queste sono le quattro tipologie di uomo quarantenne identificate da una ricerca commissionata da Discovery Channel. Abbiamo al telefono Antonella Del Rico, che è Vice President Sud Europa di Discovery Channel. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Innanzitutto, come è venuto in mente di fare questa classifica dei quarantenni? Sono così centrali? Sì, per Discovery lo sono assolutamente, nel senso che il proprio pubblico chiave, quello che... Diciamo la fascia di passaggio fra i 30 e 40 anni, ampliamo. Sì, tra i 25 e i 40 anni. Sì. Proprio il pubblico su cui Discovery focalizza appunto... la produzione dei propri programmi. Quindi significa che il quarantenne che definiamo noi ha una sorta di sfumata lunga verso il basso, cioè è uguale come era l'alto. Cioè, se un campione così vasto fa 25-40, vuol dire poi non ci sono grandi mutazioni fra i 25 e 40 anni. Ma diciamo più che altro che ci sono delle tematiche comuni che sono state identificate tra gli uomini che fanno parte di queste. Di fatto sono due generazioni diverse, però in realtà appunto sia verso il basso che verso l'alto, poi l'età anagrafica diventa sempre un'età mentale. E anche voi avete individuato che la scarsa responsabilità è una delle caratteristiche peculiari di questa generazione. Una delle cose però che mi dà più fiducia è il fatto che è la categoria meno rappresentata in Italia, perché la più rappresentata, quella con la percentuale più alta, è l'uomo al passo con i tempi, invece che è una categoria, diciamo, con un certo livello di serietà e di impegno nella vita, sia professionale che privata, e nella capacità anche di gestire una serie di ruoli, appunto, che spaziano dalla famiglia fino al lavoro. Quindi quando voi scrivete un'idea moderna dei ruoli e dei due sessi in grado di destreggiarsi numerosi impegni, non significa che è multitask anche sentimentalmente? No, no, non in quel senso. Direi che il multitask sentimentale è lo scarsa responsabilità, che invece rappresenta il 18%, quello poi che alle volte viene anche definito da varie ricerche il Peter Pan, di cui si sente tanto parlare. Sono quelli che vogliono divertirsi, non vogliono lavorare troppo, rinviano decisioni su matrimonio e figli, un certo livello anche di pigrizia mentale, diciamo, e di... appunto incapacità di assumersi delle responsabilità, però fortunatamente appunto è quello rappresentato in modo più basso. Va bene, allora diciamo che nella categoria dei quarantenni che abbiamo staffilato questa mattina, in fondo quello proprio infame che ha fatto ardere di disdegno tutte le nostre ascoltatrici è ancora il campione meno rappresentato, ma anche gli altri cresceranno. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.